Nella vita noi sperimentiamo che spesso le domande più semplici che i nostri figli ci rivolgono non sono le più facili a cui dare una risposta. Se tuo nipote ti chiede: nonno, papà, perché il sole scalda? Vai a parlargli della fusione nucleare. Questo vale anche per la fede. La domanda perché Gesù è venuto sulla terra non sempre è di immediata risposta, tant'è vero che quando io ho provato a porla ad alcune persone ho ricevuto diverse risposte, non sbagliate, però centrate. Cioè non era il fulcro del discorso. Perché Gesù è venuto sulla terra, ce l'ha detto la seconda lettura, che io vi ho invitato a seguire particolarmente bene. Paolo ai Romani, nel capitolo 8, scrive: Dio, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne. Quindi la risposta più vera è questa: il Verbo di Dio si è fatto carne, si è fatto uomo per vincere il peccato. Si tratta di capire che cos'è il peccato. Non è, come qualcuno può pensare, è quella faccenda della mela di Adamo ed Eva. Beh, quella è una parabola che ci spiega come l'uomo ha commesso liberamente il peccato. Ma io vorrei che le mie parole non fossero una predica qui per la Chiesa. Vorrei che fossero delle parole da considerare fuori di chiesa, in casa nostra, nella nostra esistenza di tutti i giorni. Cos'è il peccato nella nostra vita quotidiana? È il male. E sostanzialmente potremmo identificare il peccato con il male contro l'uomo. Certamente noi, se uno bestemmia, offende Dio. Ma siccome diceva il Vangelo, tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. E alla fine della nostra vita, come ancora il Vangelo ci dice, saremo giudicati sull'amore al fratello: avevo fame, mi avete dato o non mi avete dato, e così via. Noi possiamo tranquillamente dire che il peccato è il male che noi si fa contro le persone, contro il fratello. Allora, continuando a leggere, San Paolo dice: quelli che vivono secondo la carne sta a significare la terrestrità, la materialità, tendono verso ciò che è carnale. Quelli invece che vivono secondo lo spirito tendono a ciò che è spirituale. È verissimo, Chi insegue il materialismo vive in un certo modo. Chi oltre alla materia tiene presente che siamo fatti anche di spirito, di amore, di bellezza, di tenerezza, e non appena quanto costa, quanto mi rende, e vivono anche secondo lo spirito. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Allora, Gesù è venuto sulla terra per salvarci dal peccato, dal male, e per spingerci a fare il bene. Io vi invito a considerare quest'altra domanda che vi pongo. Quando tu preghi, che cosa chiedi? Oltre a chiedere le cose materiali, tu chiedi, per esempio, aumenta la mia fede? Tu chiedi, per esempio, Signore, cambia il mio carattere? Quante volte, amici, noi tendiamo a chiedere le cose secondo la carne, secondo la terrestrità. Tante volte io chiedo alle persone, dimmi una cosa bella, oppure come stai? Sempre, sempre, sempre mi rispondono come stanno di salute. Mai che una volta mi dicano come stanno d'animo. Sono contento. È un bel periodo. No, mi tirano fuori la loro cartella clinica quando gli chiedi come stanno. Perché noi siamo fatti così. Tendiamo alla carne. Ecco perché Gesù, venendo sulla terra, sconfiggendo il peccato, ci dice, ma vivi secondo lo Spirito. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Concludo questo pensiero invitandovi a fare una riflessione. Siamo nel periodo natalizio, dunque celebriamo la venuta di Gesù sulla terra, che è venuto a spalancarci il cielo, è venuto a togliere i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Bene, cari amici, proviamo a considerare se in questo periodo natalizio abbiamo vissuto in casa nostra con i nostri parenti secondo la carne o secondo lo spirito. Io non sono fuori dal mondo, anzi, attraverso le centinaia di contatti che io ho con le persone, io ho il polso della situazione e vi assicuro che diversi casi mi sono arrivati in cui si è litigato tra parenti in questo tempo. Non si è invitata una persona perché non ti è ancora passata la ruggine. Oppure si è risposto in un certo modo. Oppure, no, quello lì di regalo non mi fa mai niente, sta fresco se pensa che io gli faccio qualche cosa. Oppure, qui bisogna fargli un bel regalo, perché quello lì di solito si sbilancia molto con me. Amici, la carne, la materialità. E allora, siccome ci manca ancora di vivere l'Epifania, anzi il tempo natalizio terminerà domenica prossima con il battesimo di Gesù, di solito è quello il momento in cui, anche in casa mia o altrove, si toglie il presepe. Io invito ciascuno di noi, anche me stesso, e invito ciascuno di noi a rimediare. Una telefonata, meglio un messaggino, perché magari una telefonata non ci si capisce, ma se tu mandi un messaggino, l'altro lo legge e intanto scopre che tu hai fatto un passo. Gesù è venuto in una carne simile a quella del peccato per condannare il peccato nella carne. Fermiamoci almeno in casa nostra, visto che non possiamo influire sul mondo, visto che ogni tanto i cosiddetti potenti ci conducono sull'orlo del cratere del vulcano, siamo lì, amici, siamo lì. Ogni momento questa umanità si ammazza. Ma non è questione di schierarci né da una parte né dall'altra, È questione di constatare che Gesù è venuto sulla terra, ma il peccato ancora abita nei cuori nostri. E allora cominciamo a fare quello che possiamo noi. È pressoché inutile metterci a discutere sul mondo. Sì, se vogliamo farlo è anche interessante, no? Dire le nostre opinioni. Ma cominciamo a vivere secondo lo spirito nelle nostre famiglie.